Passione Africana di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Sai che c'è la passione, c'è la passione, c'è come in Italia le gente del football, c'è ça. 4.000 km a sud di Roma, l'Africa occidentale ha il ritmo, il suono dello stadio Boigny di Abidjan, prima città della Costa d'Avorio, metropoli africana bagnata dal Golfo di Guinea. Ed è mentre la squadra di Abidjan si prepara a entrare in campo che inizia Passione Africana, il nostro viaggio radiofonico attraverso il continente. Io sono Gigi Donelli, parto appunto da Abidjan verso il Camerun, mentre Roberto Antonini di Radio Svizzera Italiana è in viaggio da sud verso l'equatore. Un lungo viaggio e speriamo un grande racconto radiofonico da ascoltare e vedere attraverso i nostri siti web. Per tutto il mese di maggio, attraverso i servizi quotidiani, i nostri documentari in onda su Radio 24 nel fine settimana. Qui in Costa d'Avorio il calcio è la forza unificatrice, insomma è quella che raccoglie intorno agli elefanti capitanati da Didier Drogba, la stella del Chelsea, tutte le tribù, le lingue, le religioni, le complessità di questo paese africano di circa 20 milioni di abitanti. Una passione che non ha potuto impedire le divisioni, la crisi degli anni 90, nemmeno i giorni di guerra del 2002, ancora quelli del 2004 che hanno portato alla spaccatura tra il nord e il sud, che di fatto ha raggiunto il livello di una vera e propria secessione. Oggi la Costa d'Avorio è ancora un grande paese agricolo, ma impoverito dalla crisi, un paese che proprio mentre celebra i 50 anni di indipendenza dalla Francia, fatica a raggiungere quel voto democratico e generale che dovrà segnare da un lato il compimento del processo di pacificazione e dall'altro la ritrovata unità. Si parte così, nel segno della passione africana, sulla via dei mondiali 2010. Ci risentiamo ogni giorno intorno alle 13 e alle 21 e naturalmente sul web www.radio24.it. Vi aspetto. Radio 24 ed Eni vi hanno presentato Passione Africana.